vedere che Azenna con il palazzo di Nicolò Cosi, c'è il condominio, il Raffaele Scatto, e lui per evitare dice scusi e buonanotte, che mi sente bene. Tu deve prendere, deve andare, se ne dici quanto è in tasca, deve andare a la cosa postale, Bosa, e di dire devo mettere questa antenna, voglio pagare la tassa, quelli prendono e fanno mettere l'antenna, capito? Te la fanno mettere sul tetto, anche se c'è da prendere e fare chissà cosa, un'ubilia buona, può essere una, come si dice, una boomerang, metto sul tetto e arrivo, dove arrivo arrivo, però la metto l'antenna. Però uno lo fa anche per non avere problemi, quindi ciccia. Però se uno vuole la mette, una boomerang nel terrazzino mette e arriva. Lui non vuole far vedere niente nel terrazzino, capito? Perché per mettere un'antenna bisogna pagare 50 euro, capito? No, non 50 euro, ho detto per la tassa, se c'è ancora la tassa, che la tassa non c'è più, ma se ci sono da pagare delle spese di coso, di marche da bollo per fare domande, queste cose qua, si pagano e si mette l'antenna, mi segui? Ora sì, perché la concessione non c'è più, 15 euro non si pagano più, capito? È tutto annullato, quindi per quello sì, senza dubbio, perché devi pagare qualche marca a mollo eccetera eccetera, oggi tutto si fa con la marca a mollo, andrà bene. Ma noi, ma intanto a te non te ne ha fottuto davvero, che tu c'hai ragione, che mi sente, c'è pazienza, non c'è più l'entusiasmo di una volta che si modulava, adesso è tutto cambiato. E vabbè, hai capito, Gavi? No, io, a me non mi interessa, a me chi non mi sente mi deve sentire, a me chi non mi sente mi deve sentire. Vabbè, io ho un'altra idea, io più che altro io sono organizzato per farmi gli ex furi, capito, non per qua, quindi mi sto organizzando per quella roba lì, perché io ho amici furi e niente. E più che altro è nata una sfida tra di noi, quindi non, a me non è che mi interessa, qua lo so che arrivo e si cerca di arrivare meglio, però arrivo anche con tre vatte, non mi interessa, però a me quello che mi interessa è quando c'è propagazione arrivare fuori. E quindi sono altri, diciamo, altri progetti, a me di qua non è che mi interessi più di tanto, però diciamo che mi interessa cambiare quattro chiacchiere, ma non arrivare con grandi potenze, perché è inutile arrivare con grandi potenze quando devi mettere attenuatori, che non serve a niente. Mi segui? Sì, capito. Ma in effetti, guarda, io più o meno lo penso come te, più o meno, dico più o meno perché di più è perché giustamente mi interessa sentire qua fare quattro chiacchiere con gli amici eccetera, lascio un appuntamento, ordino un caffè eccetera eccetera, che poi non faccio neanche più quello, da oggi in poi se mi interessa trovo una persona la chiamo al telefono, ci vediamo domani, ecco qua, arrivato a questo punto devo far sapere la nuova Sardegna io dove devo andare domani a prendermi un caffè con un amico, no, assolutamente sì, quattro chiacchiere per passare il tempo mi va bene, del resto anch'io sono un pochettino non più contento della frequenza, poca gente maliziosa, il fuoco che c'è, ripeto, io non devo dare niente a nessuno, che me la faccia alta, grazie a Dio, forse qualcuno mi deve a me, ma noi agli altri assolutamente no. E niente, capito, non c'è più l'entusiasmo di prima era diverso, adesso c'è anche gelosia, ma non ho capito perché tra di noi ci deve essere questo, e a me questo non piace. E quindi evito persone in cui non so che sono così, a me questo non mi piace. Entro poco, la mia frequenza, se c'è qualcuno in bene, se no chiamo al telefono, gli faccio una bella chiacchierata. Oggi ero con una persona senza fare i nomi, che ci siamo divertiti, insomma, ieri con lui lo stesso, oggi lo stesso, se ci vediamo più tardi o domani è la stessa cosa. Io quando mi trovo bene, poi il baracchino non me ne fate nulla, capito? Ci si mangia qualche cosa e via dicendo. Tutto qua, Gabi, va bene, la frequenza è quella, a me fa passare qualche mezz'oretta, ebbene, poi va farò sempre l'orologio, perché chi devo fare cosa in casa. Io ripeto, se non fosse la cosa me la faccio nessuno, non vi ragiona se vi do una mica, mi prendi. Servitore non ha nessuno, uno anche se c'ha la moglie non è servitore di nessuno la moglie, per come la penso io. Il problema di qua è che, non lo so, c'è qualcuno che questa frequenza vuole far morire, c'è qualcuno che questa frequenza vuole fare morire, ma in continente non è così. Qua è tutta una massa di merda, però il karma non perdona, il karma non perdona. Ripeto, a me, io quando entro, arrivo a Sassari e sono contento, non mi interessa. Io la mia stazione è stata progettata, se c'è qualche radioamatore che dice progettata, è progettata, e se c'è qualcosa che non va bene me lo dicono in faccia, perché io la vita come sono, io non sono una persona che scherza, io quello che cosa cazzo ti devo dare, 52 credo, non mi rompere il coglione. Quindi la mia stazione è stata progettata e sta avendo una fase di progetto per quello che devo fare io, non per parlare, per prendere e fare stupidaggini. Io ho degli amici fuori, quindi, che sono CB, ma CB seri, non ciarlatani, e c'è questo programma, quindi andiamo così. Niente, sì, qua c'è qualcuno che la vuole fare morire, però non diciamo che noi Gesù Cristo in terra, non c'è Gesù Cristo in terra che tenga. È importante che ognuno stia bene a casa sua, poi la radio vada a galera. Io ho ripreso da poco, e se avrei saputo che c'era questa situazione, i soldi avrei preso e avrei fatto altro, perché tu sai, io gli apparecchi che ho, non ho radioline, quindi, e non ho neanche stupidaggini. E se avrei saputo questa situazione qua, non avrei neanche speso soldi, anzi li avrei spesi, ma non sarei neanche entrato su 10 o su niente. Avrei solo preso, stato zitto, ascoltato, seguivo ad ascoltare, e mi avrei fatto gli affari miei. Freccese! Registrato. Venga via. Allora io anch'io cosa l'ho sentita, però io la faccio più puntiglia, perché io le poche persone, amici che ho, sentiamo in frequenza, non esiste per me una persona che vuole far morire la 27. Non esiste, io scommetto quello che vuole, perché io a costo di trovare persona per persona, quello dico io, e noi insieme moduliamo. Io ho il piacere di modulare con Gianni, con te, con Manuele, e moduliamo sempre, non c'è problema. Chi è che la fa sparire a 27? Non penso proprio. Chi si è messo in testa queste cose è un cazzabubolo, non posso dire altro, ed è un poveraccio, mentecatto, non posso dire altro, quindi questa illusione se le deve togliere la testa. La 27 non è che muore, se uno non ne ha voglia è un conto, ma non che la vuole far sparire, cosa fa sparire? A me se mi viene uno dice, cioè, non entra più in questo, dico vai, si viene a guru, me le carate che ho io, e se continuo più la caccio in culo, non hai capito? Io sono fatto così. Quindi, va bene, non voglio prolungarmi, c'è il break, avanti Gianni, buonasera. Avanti, buonasera a tutti, perché siete adirati, pace bene a tutti. Ma è così, bridia va. KK, e non cercate di adirarsi, ognuno continua a fare ciò che crede. Io per dire, in frequenza ci sono oltre 40 anni, quindi cosa faccio? L'abbandono, finché c'è gente modulerò sempre, perché è una cosa che io ho nel cuore. Ma ti capisco. Poi Gianni, tu vai ancora a cucina attaccata a capo, visto che lui è a vino, tu ti sei svegliato 20 minuti fa, quella è voce di 20 minuti di risveglio. No, quello che dico io è che ognuno deve stare al posto suo. posto suo. Ripeto, io questa cosa qua l'ho fatta perché mi è tornata in mente questa cosa qui e ciccia, lo faccio anche per passione, per ricordo, per queste cose qua, per mantenere un coso, diciamo, una semi tradizione, però non voglio rotture di coglioni di nessuno, ho detto proprio papale. Quindi stiamo un po', diciamo, i rigancari nostri e niente. Quindi il fatto di prendere e dire ma io faccio quello che voglio, sì, va bene, tutto quello che vuoi, però quando non è che voglio prolungare il discorso più di tanto. Io la mia stazione la sto progettando per una cosa, come ti ho detto da poco fa, per fare seguire i miei progetti. Poi ne vogliano, ne dicano, ne facciano, io mi faccio gli affari miei, non certo non voglio essere cercato, quindi ognuno a casa sua. Scappa, ma chi io dico questo? Io mi sarei fatto, l'antenna, quando io ero come 15 anni che non entravo più, sono rientrato, e certo non sarà un pinco pallino a dirmi non trasmettere più, non esiste, capito? Per il carattere che io sono un tipo molto impulsivo, e non gli conviene, proprio con me non gli conviene, perché io sono il tipo che se questa persona vuole da un altro non entrare più, io lo chiamo e dico, ma cosa ti hanno detto? Entrare più? Sì, mandala a fanculo, stasera entra che ci facciamo un bel professore, tutto qua. Cioè non esiste oggi al mondo, non dico al mondo e non solo, ma nessuna parte, che uno dice che chiude la 27, lo faccio proprio da nessuno, abbandono la 27, no, se io c'ho la passione rimango e basta, e non c'è nessuno. Guarda, a cosa rimane da solo, metto la portante musicale, però io ce l'ho sempre, dico questo. Ah, c'è anche Emanuele, pardon, Emanuele ci sei. Ciao Emanuele, non sapevo manco che ci fossi, non ho fatto ascolto sinceramente. Capi, ma da cosa è scaturito questo discorso? C'è un nesso perché state facendo questo discorso oppure un discorso generale? Capi, ne stava parlando, dice sembra che qualcuno vuole chiudere la 27, cioè non vuole parlare più a nessuno, una cosa del genere, ma non esiste nessuno. Il ragionamento così e basta, non più di tanto Gianni. Nessuno finora è entrato, perlomeno in questi giorni e questi mesi, a dire una cosa del genere, anche se tempo fa qualcuno l'ha detto, però è entrato una parte e scelta dall'altra, capito? Quindi è decaduta automaticamente. Già, il fatto è che parlando stava dicendo che non c'era nessuno, non c'era solo. Io sembra che qualcuno voglia far morire per 27, però adesso io il mio progetto è fare altro, sì, parlare con le persone, diciamo. Io dico sempre una cosa, io ho sempre detto nella mia vita che amici non ne ho, perché io amici ne ho 5, ho le mie dita dalle mani, non ne ho amici. Io quando dico amicizia per me è una cosa, gli amici zero, ne avevo ma li ho mollati. E quando io ho delle persone che conosco che tratto bene in continente, quindi la mia stazione si sta formando per fare i DX fuori, cui sì, già io per carità conosco tante persone della 27 che addirittura devo dire sempre una cosa, che a me è stato Gianni a invogliarmi per entrare per prendere e fare una stazione radio, quello io l'ho sempre detto. Paolo Vigiani, dottor Runfe, mi ha invogliato, mi ha preso e grazie a lui io sono qua, sono in radio, perché avevo la passione tramite la mia famiglia e ciccia. Però se avrei saputo, diciamo, questi discorsi, queste cose strane, di cose, di gente che quando entri va via, di gente, verità, ma avrei fatto la mia stazione per farmi gli affari miei, però non sei neanche entrato, mi segui? Ma io dico questo, sì, a me una persona, se uno entro io per esempio se ne esce a me, manco mi importa, perché io sulle tre congenti parlo con Gianni, anch'io ho pochissimi amici e frequento pochissimi amici. Amici ne ho molti, però ripeto, chi si comporta bene per me lo reputo un amico, e mi comporto da amico veramente, non faccio nessuna caragnata né niente. Poi chi non vuole entrare che sente a me si può benissimo nascondere, non ascoltare o andarsene via, fa quello che vuole, non mi interessa, a me non mi fa né caldo né freddo. Amici, nemici ne ho pochissimi, diciamo, pochissimi perché eliminati del tutto e manco ci parlo, ma non dico nel fattore soltanto del CB, ma anche all'esterno, diciamo, proprio amicizia. Ce n'è poca, perché ho notato cosa sono gli amici, ce ne sono pochi, ho capito, posso contare con le punte di dita. Quindi lasciamo perdere i parenti, ma amici pochissimi, quello lo posso dire a voce alta. E io con gli amici mi sono trovato sempre bene, amici con la maiuscola, poi il resto non lo so. Avanti Gianni. Ma perché oggi siete così grigi? Perché io, guarda, sono entrato perché stavo tagliando la carne, al contrario di quello che ha detto Gavino, che avevo la voce da sonno, mi sono, sì, ho riposato dopo pranzo, però poi sono andato e ho tagliato un bel po' di carne, quindi sono abbastanza ardito, solo che sono sdraiato, quello sì. Gavino, ma fatti scivolare tutto quanto addosso, cosa stai a prendertela a fare? No, io mi faccio scivolare tutto addosso, tanto gente invidiosa, gente che c'ha sempre da dire, ce l'è sempre, capito? Basta lasciarsi scivolare tutto addosso, perché tanto la gente più la fai cantare e peggio sta, perché se gli rispondi la fai godere, invece se tu la lasci cantare e fargli vedere che non vale nulla, si sente una nullità. La stessa cosa dico io l'ho imparato lo stesso. Ma sai che di ne so io. Scusate, sono entrato così a col conflitto, Quanto ne so io di chiacchiere, ma chiacchiere bisanti proprio. Ma il basso manco bau burro, tu mi rispetti, ti rispetto. Però ti dico, ancora non mi tocca la famiglia perché ti vendo una bestia di vento. Allora ti faccio del male. Tutto lì, poi degli altri chiacchiere, qua sai quanto ne so, sai quanto ne ho ascoltato. Tanto riconosco me. So come uno è fatto, come è fatto uno, come è fatto l'altro e cosa vuoi fare? Comunque ben rientrato Antonio. No, io sono il tipo, lo spiego in 4-8, nel senso che se uno a me mi parla, facciamo un nome a caso, a Gianni è un carissimo amico, se uno mi parla male di Gianni, questo mi dà fastidio perché io conosco Gianni, tu mi puoi dire una cosa diversa. Io sono il tipo che rivado da Gianni, non ne faccio la spia, dico, oh già, ti faccio sentire una persona, cosa pensa di te? Richiamo quella persona, come è già successo, e dico, ma non ho capito bene quello che mi sta dicendo Gianni, metto viva voce e Gianni sente tutto quello che dice. Ma questo lo faccio non per altro, perché ripeto, Gianni è un carissimo amico e non si merita che lo parlano in questo modo e poi gira gira ci parla baracchino e sembra un santarello. No, questo mi dà fastidio. Uno non può parlare alle spalle di uno, se è di destra torna a verso gli unici e faccia, capito? Come è già successo una cosa del genere. Quindi io amici intendo nel senso, sì, ci troviamo, prendiamoci un caffè, andiamo a non ci piace la frequenza, Gianni ci vediamo, facciamo colazione la mattina, io ci vediamo, ecco, e ce ne smatte il baracchino, entriamo la sera a passarci qualche mezz'ora, se si fanno modulare, se non ci fanno modulare pazienza, è troppo importante, non sento il tizio, lo chiamo al telefono, spiego il baracchino, capito? Io non ne posso più sangue monaro, non me ne frega niente, a me il baracchino mi danno, ne mangia niente. Ma io ripeto, voglio passarmi una mezz'ora con gli amici, me la passo, non se non si può, lo chiamo al telefono, ci vediamo, è importante, no, non esiste più, tutto qua. Voglio essere politico, non voglio essere. Giusto quella che c'è Antonio, io sono altrettanto. Quindi. Avanti, capì? No, mai così. No, io, a me, guarda, a me non mi interessa, me ne frega, a me, come ha detto Gianni, a me mi scivola tutto addosso, io non do retta né uno né all'altro, a me non mi interessa. Però do per scontato di una cosa, che se tu parli male, che se per esempio a me una persona parla male di te, con me, io so perfettamente che poi con te parla male di me, quindi con la persona io bisogna anche prendere in considerazione, prendere in considerazione. e la si lascia cantare. Sicuramente è certa una cosa. Io non posso parlare male di nessuno, perché io non devo un cazzo a nessuno, se devo qualcosa a qualcuno, io la casa esco con la testa alta, capito? Io non devo un cazzo a nessuno. E in denaro e nei favori, che sia ben chiaro, se qualcuno ha da dire il contrario come lo dica. E non voglio niente, perché io le cose le ho sempre ripagate, anche se me le regalate, io le ho sempre ripagate in qualche modo. Anche a volte superiormente, cioè superiore alla cifra che tu mi hai regalato. Ma non lo faccio per prendere, perché io mi sento in debito, ma lo faccio perché è così. Perché la cosa quando è mia è mia. E comunque, non... A me non mani di ira, sai, i cosiddetti, come si dice, le cose, i granuli, così è, che si fanno in agro dolce. Non mani di ira i guglioni, detto la sarda. Il mego a baghi. Che prendi già. Ci deve venire più vinissi. Oppure gli altri, ma non si dice queste cose qua, dai. Io ripeto, a Gambino l'ho conosciuto una volta solo, che è venuto qua da casa, eccetera, eccetera. L'ho ripeto, un amico, una persona in gamba, e se qualcuno, mi auguro che non succeda, dice qualche cosa contro Gambino, io gli posso dire, ma tu quello che stai dicendo, sei sicuro quello che stai dicendo? Glielo decidessi, faccia Gambino, capito? Non è che vada a dire, Gambino ti ha detto questo, no, io a questa persona dico, tu sei le palle, quello che stai dicendo, glielo diresti in faccia, dice no, allora tu sei paurace, vai a dire le palle, capito? Quindi, anzi, dato che tu parli delle persone male così, non mandare in faccia, come è finito, non ci viene più qua, boh, finito, io sono fatto così. Bene Meda, comunque, Antonio, hai finito di mangiare, anche tu? No, non ho ancora cominciato, io comunque penso che lo dico sempre, mi vai di vino, vai. Se lì devi dire qualcosa, diglielo tu. Io ho imparato a farmi gli affari miei, perché poi se tu vai a fare chiacchiere, e mi dispiace purtroppo, se tu vai a fare chiacchiere, poi ci passi tu baromacco, invece io mi faccio affari miei e va bene con tutti, però gli dico, vai e diglielo tu, non chiudi il discorso, la parentesi chiude là, parliamo di noi, delle cose nostre. Io ho fatto così, cioè sono fatto così, io gli dico parliamo delle cose note e vai diglielo tu, però io non mi mischio, perché tanto non so, ne esce un casino mare, ne esce, poi alla fine sei tu Marco, cioè se c'è una cosa con una persona, sei tu lo scemo, che ne esci di sussa, quindi io mi farò a farmi gli affari miei, se io dico con me, vai, dimmelo tu, non ne prendere più quel discorso. Ma che così, funziona così qua, più ci facciamo i cazzi nostri nella vita e più stiamo bene. Antonio, dimmi. Sono Gavino, ascolta adesso, a parte questo discorso qua, ma tu stai sollevando tutti i giorni l'antenna ai 50 centimetri piano piano, facendo il furbo, così è? Diciamo che da taggi funziona. Perché io sono una settimana che prima non ti sento, poi ti sento appena, poi ti sento un pelino più in su, allora mi arriva il segnale Setti e non puoi attare l'antenna. Tu piano piano stai volendo un pezzo di tubo di 50 centimetri sempre in lì, così è? Troppo la metto sul tetto. Bravo, così vuole. Prima non metti in Dio, ma giomai va a ripisegnare i nubi. Sì, perché prima fa un bella bistecca a cavallo a dondolo, una bella mangiata e solleva leggermente. Poi di domani gamberoni, una bella mangiata e altri 50 centimetri, così andrò. Un attimo che mi ha detto una cosa in famiglia, per due secondi. Comunque. Niente, io se ho fatto qua la cosa una volta con Gianni, perché io con Gianni lo conosco una vita, e a parte che la conosco una vita abbiamo una certa confidenza e non ci togliamo gli occhi uno con l'altro. Io lo ripeto, un amico, grande amico, come fratello, ripeto, e Gianni te lo può confermare. E niente, sono contento di avere un amico come Gianni, ripeto, sono tanti amici, però man mano che pure conoscete accorgi il bene che di voi, capito? E quindi niente, ce ne sono pochi amici così, pochi nel senso che a te ti ho conosciuto un giorno, ti ripeto, e dalla prima persona mi ha fatto una bella impressione. Sei una persona bravissima, in gamba, educato, tutto quello che vuoi. Ripeto, è tale quello che rimane amico, amico diciamo, perché nemmeno le persone così vanno bene, mi piacciono. Se si ripeto quanto, se ci vogliamo scherzare, scherziamo, se vogliamo fare seriamente, faremo seriamente, se vogliamo farci mangiare una pizza, ci mangiamo una pizza, capito? Tutto qua. Poi le persone che sono gelose, se non so, mi tirasse e basta, perché io in questo rango qua non le voglio persone gelose. Cioè uno se migliora sono l'uomo più felice del mondo, capito? Se uno peggiora mi dà fastidio, cerco di aiutarlo e farlo salire su, tutto qua. Bene Meda, ok, avanti capito. Eia. Gianni, ma dimmi una cosa, ma stamattina cos'eri in giro, vendi a burrotto con la radio in macchina? Ehi, ero io, stavo chiamando adesso una risposta, poi ho staccato tutto. Ehi, ti ho chiamato dopo, ho fatto, accendendo la radio, e sentendo, c'è nessuno su canale 10, cambio, wow, wow, wow, sono andato a rispondere, zero. Oh già, ti ho chiamato io, ma detto che non arrivi perché in macchina. E dopo Tony l'ho attaccato, perché quando vado a fare la spesa entro nel parcheggio, no? E nel parcheggio tocca l'antenna, quindi non l'ho messa subito. Prima ho fatto la spesa, l'ho portata a casa e poi sono riuscito. Okay. Infatti se sei sentato Tonino, dico se me la pigliassi il caffè, invece non ti ho sentito. Se vabbè dai, ero con Marco e siamo andati a fare delle fotocopie, altra roba, e poi è passato il tempo, capito? E io ho la concezione di amico molto, diciamo, vara, dai. Io per amico intendo uno con la A maiuscola. Cioè l'amico non sono tutti amici, c'è gente che dice quell'amico mio, magari lo è un conoscente, no, io non sono così, se io ti chiamo amico è perché sei amico veramente, capito Gavi? Io amici non ne ho, io amici non ne ho, capito, io ho amici d'infanzia, che io lo dico così, io ho amici d'infanzia, che non ti frequenti più, quindi l'amicizia prima o poi va a perdersi, cioè non è che uno non è che perché è amico d'infanzia rimane amico tutta la vita, no, io amici non ne ho, io a me quando mi dicono amico mio un cazzo, ma io amici non ne ho, a me non me ne frega niente, io ho la mia famiglia, io ho quello che mi serve e io amici, a me quando mi dicono oh, amico mio me lo fai questo lavoro, no, fermo un attimino, tu amico mio non sei, tu sei un mio conoscente, quindi tu a me mi paghi e ti porto il lavaglio, capito? Quindi a me, per me l'amicizia, io ho amicizia, ce l'ho in camera da letto e in cameretta, in bagno, che è lo specchio, in soggiorno, ho uno specchio, degli specchi grandi, gli amici miei sono io, poi c'è la mia famiglia, che è mia figlia, mia moglie, mia madre, mio padre, però il mio amico sono io, la mia famiglia è superiore all'amicizia che sarei io, e niente. Però gli amici di persone, amici fisici, io non ne reputo neanche uno, perché lo so io, ma non, a me non mi interessa avere un'amicizia intima, non intima a livello sessuale o corporeo, ma intima nel frequentarsi, nel fare, perché sono una persona che si stufa abbastanza in fretta delle persone invadenti, mi segui, quindi preferisco stare solo, stare come vivo, quindi non voglio rompimenti di scatole di nessuno, e prendi Gianni. Gavi, vabbè, io la penso un po' diversamente da te, perché diciamo sì alla famiglia ci tengo, però se c'è un amico che nel momento magari che ha bisogno di confidarti o magari sei giù o cosa, ti fa piacere parlare con una persona che ti capisce, che ti aiuta, eccetera, eccetera. Non tutti siamo furti come crediamo di esserlo, Gavi, ci sono i momenti che crolli e poi magari ti tiri su, questi, io questi momenti li ho vissuti, quindi lo so. E a me l'amico che ci avevo a fianco mi ha fatto comodo, nel senso che mi ha aiutato a superare certi momenti, eccetera eccetera. Quindi l'amicizia serve, però deve essere vera, Gavino, deve essere un'amicizia tanto per dire, poi ti dà la pugnalata alle spalle, quello no. Esatto, esatto, ma siccome amicizia ormai ai giorni d'oggi non ce n'è più di quei tipi lì, che io ti capisco cosa mi vuoi dire, quindi io preferisco invece davvero un'amicizia e pugnalarmi alle spalle, io preferisco essere solo ed essere convinto ed essere sicuro di essere solo. Quindi essendo solo mi organizzo, per questa situazione qua, capito? Perché se poi a me una persona prende, mi delude, mi rompe i coglioni, io prendo, mi incazzo, è un casino, è un casino, già, ma credimi che è un casino, anche è un casino niente. Una decina d'anni che sono, che la penso così, e non voglio essere in mezzo a niente, non me ne frega niente, non esco, qui io faccio casa, lavoro casa, famiglia, e sto bene così. Non sono 2 mesi o 3 mesi, o è la classica cosa dell'infanzia. Infatti ho detto da prima che ci sono le amicizie dell'infanzia, che quelli rimangono amici, sì, quando li vedi ti prendi un caffè, magari fai la festicciola, però ognuno a casa sua, per intenderci, ognuno a casa sua. Io non penserei mai di andare da una persona e raccontargli le cose della mia famiglia, anche perché la mia famiglia, le cose di casa mia le devo sapere io, non nessun altro. Perché le amicizie a volte vanno a sparire per 100 euro. Gabi, adesso per dire te ne racconto una, poi scusate se stiamo un po' monopolizzando, ma il discorso è interessante. Te ne racconto una. Io da ragazzo avevo un amico, quasi tutte le amiche erano donne, avevo solo un amico che da quando avevo 14 anni sino ad avere 19 anni eravamo come il Bustic, sempre insieme, sempre attaccati. Infatti il padre ha detto: mi meraviglierei se vedessi Antonio con una ragazza, perché lo vedo sempre con Gianni. Beh, fatto sta che questo amico, poi dopo che ci siamo sposati, ci invitavamo a cena uno con l'altro e cose, poi ci siamo un po' persi di vista. L'altro giorno ho trovato la moglie in banca e ha detto: adesso chiamo Antonio e gli dico: guarda, sono con una persona e vediamo un po' se ti riconosce. Mi ha passato questo amico, lui mi ha detto: chi sei? E ha detto: è una persona che tu conosci molto, ma molto bene, anche diciamo non solo esteriormente ma anche interiormente. E lui mi ha detto: boh, non ha riconosciuto la voce l'ha cambiata anche lui. Beh, fatto sta che ci siamo trovati, siamo stati una sera insieme, abbiamo bevuto, ci siamo raccontati tante cose brutte e belle, e poi ci ha fatto piacere perché ci siamo scambiati il numero di telefono e ogni tanto ci sentiamo. Quella è amicizia, l'amicizia se è vera si mantiene anche se non ti vedi, poi quando ti ritrovi non vedi l'ora di raccontare, di fare, è una cosa, diciamo, perlomeno per me è così. Sì, sì, ma vabbè, ma anche io, guarda che io a Natale, a vigilia di Natale, sono sceso a Porrottore a comprare il pane, a comprare la roba che mi serviva, e ho trovato due amici miei, è scoppiata la festa, mi segui, amici d'infanzia che non ci vedevamo da 7-8 anni. Ci siamo trovati di lì e io a berci un caffè, io ho dato un caffè e siamo passati alla mezza leggera, all'imbriaghiera, e abbiamo iniziato a raccontare così, colà, perfetto, tutto quello che vuoi, e beh, sposato, sì, bambina, tutto quello che vuoi. Però io la penso sempre una cosa, ognuno a casa sua. Perché io la penso così, la penso sbagliato, però quando io dico ognuno a casa sua è perché ognuno a casa sua. Va bene, facciamo girare un pochino, dai, vai Tonino, io faccio un attimino di bianco perché devo fare la piscia. Ciao già, ciao Bruno, ciao a tutti, anche la ricordando via. Volevo dire Gianni, ma dunque, tu hai detto che hai amici solo con A maiuscola. Dunque io, dopo 50 anni, non mi posso ancora considerare amico tuo perché mio nome comincia con la B. Poi sono amici A, andiamo bene. E noi ci conosciamo dai periodi di Manuel, te lo ricordi a Manuel? Sì, se me lo ricordo. Io ti ho conosciuto assieme a Angelo, carissimo amico, già lo sai, buon'anima. Angelo Mello, che aveva un cognome quasi simile al tuo, Esatto, che abitava dove c'era il carbonaio. Sì, dove mi riaggiri, ma ci vediamo, io subito, aveva 14 anni, ero grande, aveva avuto 16 anni, ma dentro quel cortiletto, se quel cortiletto potesse parlare. Saluto gli amici, ma che c'è anche Tonino? Eia. Anche con Tonino ci conosciamo una cinquantina d'anni, ma Tonino, a me che ci vorremmo considerare amici. Ciao comunque Bruno, a proposito, come mi ascolti così, dopo tanto tempo? Ah bene Tonino, bene, ma io già ti sentivo bene anche prima. Tieni presente che in questo momento io sono in direzione a parte alta, dai. E, insomma, vedo San Camillo da qua, parte alta, diciamo, Filigheto, quella zona là, per cui di fronte andando verso San Camillo dovrei essere in linea, dai, pochi chilometri da te. No, no, la radio è molto bella, chiara, forte, va bene. Ok, mi fa piacere. Sì, e Bruno, anch'io ti considero un grande amico. Raro che ti vedo, perché qualche volta che ti vedo ti saluto, qualche supermercato te l'ho visto con tua moglie. E niente, gli amici sono sempre amici, non ci vediamo spesso perché ovviamente tu c'hai le cose tue e c'ho le cose mie, non coincidono i tempi per poterci vedere, prendici un caffè, ma se capita non c'è problema. Io ti ho sempre considerato un amico Bruno, e penso che tale mi considerai anche a me, dai. Chissà c'è con sé. No, è no che mancata la corrente, mi sto vesticciando col baracchino. vabbè, ci conosciamo appena, boh, non lo so, sono 50 anni forse, no? Io penso che ne siamo passati tanti gli anni, anche con Gianni, già ne ho conosciuto prima. Shadow 2 si chiamava Angelo, adesso mi è venuto in mente. Angelo Mello, poverino. Ma tu Gianni lo conoscevi prima di essere CB? Io no, l'ho conosciuto tramite la radio, ma lui avrà avuto 14 anni, più o meno, quando l'ho conosciuto più di tempi, dai. Perché non te l'ho piazzata io? No, io prima ho cominciato con un Lafayette tre canali che mi aveva venduto quello che si faceva chiamare Diabolic, che aveva invertito il quarto, diceva che non funzionava, e Angelo mi aveva detto già prendilo che lui ha invertito il quarto e basta, l'apparecchio è buono, lo porti qua e lo mettiamo a posto. L'abbiamo aperto, ha acceso il baracchino suo e abbiamo messo i quarti come si dovevano mettere, aveva invertito quelli di ricezione con quelli di trasmissione, non usciva per quello, ed era una bomba. Io di amore che conosco uno solo, altri di amore che non ho conosciuto. C'era anche un criminale che poi è sparito, non so che fine abbia fatto. Criminale c'è ancora, basta che va sul canale 45 senti criminale. Comunque di amore che è sempre Walter, quindi noi ce ne sono tanti altri, a Walter l'ho conosciuto proprio nei primi anni 70 quando sono entrato in frequenza io. E anche io a Walter l'ho conosciuto così, mi ricordo che c'aveva un furgone tipo Ducato, però con la scritta, come si chiama, Alfa Romeo, con lo stemma dell'Alfa Romeo, era uguale al Ducato, però c'aveva sistemi Alfa Romeo. E io a partire, lo guidavo io un furgone 238 andare tutta al nord Sardegna a portare la nuova Sardegna tempo fa, ma tantissimo tempo fa. Uscivo da lavorare verso le 6 arrivavo a Sassari, poi partivo per Fiume Santo a lavorare di nuovo, lavoravo la sera. Sono durato 7 mesi e poi mi venivano gli incubi, ho detto Walter non ce la faccio più. Ma quella dopo quando dico io Walter da ragazzo, allora lavorava dal padre giù alle punti a fare dei mobili e lui corteggiava il raggio di sole, se ve la ricordate. Comunque Bruno, io mi ricordo benissimo che io sono entrato esattamente luglio del 74, punto, basta, poi. Ciao Bruno, ciao a tutti, ho acceso adesso e sto per cenare, un salutino a tutti. E così si inizia, sempre a magna. Ciao Natalino, saluto a Correa. Ciao Natalino. La magna, pensa. Ecco, è entrato per farci un dispetto, perché ha detto aver fame. Vabbè, non stavo dicendo una cosa, adesso ne si cazzo, vabbè, forse non farò niente, non lo so. Va bene, io sono entrato comunque tramite mio cognato, già l'avete conosciuto tutti, Storia La Verde, buon'anima. E nel 71 ho anche delle registrazioni con degli amici in frequenza, perché allora registravo molti programmi. Ma ero minorenne, mi pare che ero minorenne. Allora la concessione, perché la prima concessione era nata, mi pare nel 71-72, non mi ricordo, ero minorenne, allora stava fatta a nome di mio padre. E di la verità che è alla registrazione di Falcone pure. Forse quella mi manca, porca miseria. Mica c'è bombo, lo fate girare. Capo, no, continuate a parlare. Dai. Una scena, siete moniti comunque, dai, non si fa così. Sì, dicevo poc'anzi, Bruno, perché a te ti è mancata la corrente. Ho detto che io ti riputo l'amico. È rare volte che ti vedo e quando ti ho visto anche sul mercato con tua moglie ti ho salutato. Non è che giro lo faccio come fanno certe persone, come mi è capitato, ma non me ne frega niente. Io cammino sempre faccia alta, tutto qua. Ho detto, penso che tale mi consideri. Avanti, Bruno. Dopo tanti anni, cosa vuoi che ti consideri? Tutti? Sì, ma già mi ricordo, ci siamo incontrati. Fa piacere, anche se ci vediamo di tanto in tanto. E adesso, se noi ci vediamo fra 20 anni, va bene, cerchiamo di incontrarci. Tony, il problema è quello che ci incontriamo anche dopo 20 anni. E va bene, perché se non ci incontriamo un casino, eh. Quello sì, purtroppo. Gavino, riprendi. Gavino, là, su. Gavici, sì. E comunque, niente, io mi ricordo che D'Angelo ci andava un po' di volte. Eravamo sempre lì con Antonello Vacca. Manuel era un bel amico mio, capito? Stavamo sempre insieme. E poi lui mi aveva messo in testa il baracchino, ha detto dai, compratelo anche tu, dai, che è bello, questo e quell'altro, me l'aveva fatto sentire e mi aveva entusiasmato. Il padre gli fregava il microfono e cominciava a rompere le scatole alle ragazze e diceva, ma di carrozzeria come si fate? Lui, basta papà, lascia perdere. Io me lo ricordo Manuel, mi pare che Manuel a me aveva venduto il Tokai 5008, scatto di Alambo che ha fatto il Tokai 5008, mi pare, ma l'aveva venduto Manuel a me. Poi, una ventina d'anni fa, avevo saputo, era andato a lavorare, si era trasferito in Russia. Sì, lo so, però adesso è al Ghelo, perché ho trovato la sorella da poco, da Eurospin, e mi ha detto che adesso si è trasferita da Alghero. Io mi ricordo che il primo baracchino l'ho comprato via Principessa Maria, sono Vaderrato Grassi, il Faccio 2030, poi il Pelagio Sipson l'avevo preso. Quelli sì che erano tempi, Bruno, allora era un'altra cosa la 27. E già non avevo fatto. Allora io sono entrato con il Tokai 506S, un Tokai portatile a 6 canali. Poi avevo comprato il Pace Asa 100S a qualcosa del genere, che mi pare non avesse venduto, e quel ragazzo che abitava in testa Mazzutti, che il padre era radioamatore, IS0CDO, come si chiamava, Mura mi pare, porca miseria. E poi avevo comprato il Tokai 5024, che quello dovrei averlo buttato da qualche parte, dovrebbe essere ancora in garage. Era Romeo. Il Romeo, sì. Romeo, che si chiamava, il padre si chiamava come il figlio, uguale. Il padre era un anziano radioamatore di quelli, e andavamo a casa sua lì, in piazza Mazzucchi, avevano tutte queste direttive, tutte radio, fatte da lui. Sì, un piccolo chiuso, tra a sinistra, l'ho trovato anche a Milano, facevo il postino a Romeo, penso un po'. Non ho più visto, sparito la circolazione. Comunque. Cosa volevo dire? Non mi ricordo più. Altri tempi, dai. C'era più gente, c'era più tutto. Ogni canale c'erano sempre quelle 5-7 persone, 10 persone. Poi mi ricordo si faceva anche il Portobello a canale 15, con Torre Chopin, su un piatto. Torre Chopin l'ho visto da poco, con lui già ci vediamo ogni tanto. Riprendiamo. L'ho visto anche io, ero dall'Elettrauto, è passato davanti a me, e beh, Torre Chopin, si è girato, ha fatto una faccia, e beh, non mi ha riconosciuto, no. sono già nei doppi ruoli. Ma va, io voi, non c'ho più fisionomia, non conosco più le fisionomie, adesso abita a Viale Sicilia. E io lo so, io sono andato a fare che volta a casa sua, che già lo so, vero? E io ci andavo quando abitavo anche la Sereletta, penso un po', ci lo trovo anche io ogni tanto, per il cammino sciopiato, e Simone lì lì, lavorava da Brisolato per fronteggiare via Principe San Maria. Già te lo ricordi bene dove abitava, no? La volta che mi hai fatto passare un casino, siamo andati, che tu mi hai detto, io andiamo a bere da Dita, e dopo dove chiudi a Edo. E chi io? E allora, e si è andato, lui era affacciato alla finestra, ha detto, cosa ti ha portato? Rinforzi, non ce la facevi da solo. Ti ha detto a te e poi ha detto che ci denunciava tutti e due, io l'ho vista nuda, non so più nuda. Ah, io non c'è bisogno di portare rinforzi, assolutamente. E via, non è persona da mettere male addosso, dai, torre poverino che è stato sempre simpatico, però qualche volta che scazzi anche lui è ovvio, è attento tutto qua. Vabbè, comunque. Ma Emanuele ancora in ascolto, Emanuele. Gavino! Gavino ci sei! Sfruttanato, Antonio ripeto. Ma con un cavallo la fate che si lope? Vecchio, e te, vedi te, vedi, stava mangiando, non poteva parlare a bocca piena lui. Aspetta, la salita. Allora scendo. Io l'ho preso stamattina, ragazzi, poi sembravano lenzuola e tenera pure. Al centro carni lì la prendo. Costa di meno ed è un bel buona. E tenera. La metto un po' a marinare, prezzemolo, aglio, peperoncino, un po' di sale e l'olio. E poi la faccio all'ora di pranzo. Dunque già. Qua vicino a casa c'è un casino grande, adesso io per venire a Sassari, ok, se io devo fare un altro giro della Madonna, al ritorno devo fare tutto il giro all'incontrario perché la crociera è diventata unica. Salendo, ti ricordi quella Guadarrecchia sulla destra, tutto buttato a terra, stanno lavorando, un casino. File di macchine, di stare in roba di un'ora fermo. Allora, ieri ero al telefono con Stefano e mi ha detto c'è una fila esorbitante, solo 40 minuti fermo con il pullman, devo andare a rifornire e praticamente non riesco ad andare perché c'è una fila esorbitante. E mi ha detto che c'era un grosso incidente, che c'era un'autobotte girata e ha coinvolto non so quante macchine, è un incidente un po' grosso. Ma dove sono io? No, cazzo, Stefano dove lo sai? Pardon, sono confondendo con il tuo Stefano. No, ma dove sono io invece, deve essere che la quazzona che ha fatto, non lo so, qualcuno stava franando, stanno tutto rompendo, non so cosa sono. Se sentiva la mola, molto picco, un casino, hanno ristretto la strada, solo una corsia, quindi c'è un semaforo, la fila, non crede, perché è una via molto trafficata questa qua, capito? Un casino, infatti io per venire a casa scendo l'inizio prima delle curve giro a sinistra, faccio tutto il giro sul retro, vado a finire dove abita mia sorella a campagna e poi sono più vicino a casa mia. Un casino comunque già. Io cosa ho detto, il traffico è successo. E invece mi è un casino. Cioè se devi andare a Sennori è un casino andare. No, da casa mia a Sennori fai fretta a andarci. Andare a Sassari è un problema grosso. Oppure chi è a Sassari per venire a casa mia è un problema grosso. Ho capito. Vabbè dai, sarà una cosa momentanea. Gavino, ci sei? Niente. Antonio, riprendi tu. Ma però da casino, c'è la strada chiusa. No, non è chiusa tu, doppio senso di circolazione, praticamente con una corsia, cioè se mai affronti i fermi c'è una fila della Madonna. Poi tu pensa Gianni, tu sai dove abito io, da dove abito io, no, facciamo dall'inizio, da Sassari venendo la prima discesa che fai, quando arrivi giù dove c'è l'Ogulento, da lì fino a casa mia, traffico, tutta la fila di macchine. Mamma mia, quello che odio io è il traffico. E poi il semaforo dura quello che dura, passano 10-12 macchine, busto, se passano, se uno è aumentato, mette la prima, poi spuntare, piano piano ne passano 5-7 macchine, bummi, tu pensi alla fila di macchine che c'è, pull, ma non parliamo, ne cambia, per carità, no. Niente Antonio, traffico, un bè, io devo fare tutto un giro della Madonna per andare a casa, a consumare più benzina e boom. A proposito del benzina, mattina, l'altra sera dovrebbero essere chiusi i rifornitori. Non tutti, ci sono anche gli automatici che funzionano. Io me la aggiungo apposta, ma a me mi dura, perché tanto io non è che vado chissà dove. Ma io ho fatto il pieno ieri di gas, la benzina ce l'avevo già, ho messo il gas. No, io ho messo un po' di benzina, poi il gas ho messo un po' di aria. Bruno, avanti. Io ho messo un po' di corrente. Vabbè, perché è rimasto? Ma Padino ancora ci sei? Già ci sono, Bruno, già ci sono. Sto ascoltando tutte le cose che state dicendo. Ente, a ti piace mangiare, la frigiola con la cremuzza? Sì, salve a te e a Gianni. Già, qua non ti salvi, eh. Che si invade nella lecce come Dumbo a furia di accusare. Cata, le orecchie pelose mi sono venute, No, l'unico che risparmio sono io, Cosa tu? A me 5 euro di benzina mi fanno, Ma risparmio anche io. Io con un pieno 23 euro metto il pieno e mi dura a gogo. Avanti Bruno, ma la tua cosa è elettrica, Bruno? No, ma io sono andato già mi sono andato una ventina d'anni addietro, però adesso più di 10 anni che non mi uso più piano. Ma questa macchina che ho io adesso ha la roba del 22-24 litri, per cui diciamo che è una pacca. Poi io c'ero tutti i giorni a Platano, una mattina c'è e basta. Adesso ho fatto il conservatorio, a voglia come basta. Figura, se no già consumo poco. Da quando non sto lavorando non sto più viaggiando ormai. Idem come sopra, anche io questa macchina qui l'avevo presa proprio per andare al lavoro, per avere una macchina diciamo nuova, dai. L'altra c'aveva 350.000 km, anche se camminava sempre era un treno. E c'avevo l'impianto a gas anche lì, però lì me l'avevo messo io, invece questa l'ho comprata già con l'impianto a gas dalla fabbrica, capito? E vabbè, comunque io mi ricordo anche la buonanima del tuo cognato che si trasferiva il gas dalla bombola. Vabbè, anche io facevo il gas, io addirittura avevo anche la macchinetta di musica. Facevo il vuoto, compravo la bombola, perché prima la bombola viene del gas di casa, la bombola domestica, diciamo, costava meno di quella che comprava il distributore, e dunque risparmiamo e stavo vicino. Ho avuto 3 o 4 macchine, diciamo. Poi sono diventato ricco e non ne ho più comprato gas. Sì, ma non è questione di ricchezza, è questione anche che adesso le macchine a gas ti fanno quanto quella a benzina, se non di più pure. La mia, io l'ho tirata sino a 200 la Nazionale di Alghero che è a gas, quindi rende, vabbè, è turbo anche la mia. No, ma vabbè, anche io avevo tutto quei macchine. No, ma non è quello, allora il gas, se mi ricordo io, il gas costava meno, ma il gas costava, consumava più della benzina, per cui c'era sì un pochino di risparmio, però alla fine, quando ho cominciato io, non c'erano distributori, c'era soltanto Gianni e lui, a Ottava e basta, poi avevano messo il distributore a Pomela, però quando io ho viaggiato molto, più altro in Cagliari, di Nuro, andavo di Stato per lavoro, Olbia, due volte a settimana, a Tempio, io girato dappertutto. E tutte le volte che viaggiavo non c'erano mai distributori, c'erano pochi, ce n'era uno sulla strada di Tempio negli anni 80, poi basta. Stavo dicendo, ragazzi, io sono in campagna, a Guglio, ci sono questi bei lampi in lontananza verso Alghero, che è una cosa bellissima. Mamma mia, Bianco per me, dai, che io vado a mangiare. Ci sta arrivando forte, Bruno. Sono verso qui, che su quella zona sarà. Esce fortissimo qua. In macchina, e cosa vuoi? In macchina con un baracchino di quelli andanti. Sei alto comunque, dai, anche a me arriva forte il radio, anche il segnale. Dai, buon carico Antonio, se vuoi caricare, ci sentiamo, stai bene, saluto a Corea. Ok, Emanuele. Scappa, avanti a chi tocca. Gavino, sei entrato? Antonio è andato a mangiare già. A che ore sono? Le 7:20. Dai, c'è stato. Tra poco me ne divisa andare a portare del cane. Beh, sentiamo domani. Io devo entrare a scuola al campo. C'è da scendere, fa un po' devo fare la stessa. Se la richiudono che si deve fare. Ci vediamo ragazzi, ciao a tutti, all'altra sera. Ehi, ciao Bruce, stiamo bene. E buona spesa, dai, avanti Antù. Gianni. Sei rientrato, capì? Ha detto la pisciata di Luca Vado a fare. Però alla febbre sono con lì, dai, ci andiamo domani. Ah, vabbè, dai. Alzacela. 39 quasi. Cazzarola. E mettili qualcosa di bagnato in testa, fallela scendere. Manuele, si è messo ascoltando, ultimo, oh già. Eia. Mi ha mandato la registrazione della voce mia, un baracchino suo. Ah, per fartela ascoltare. Eia, tu che c'è bene questo microfono, eh? Te l'ho detto, sembra che c'abbia un microfono amplificato. No, è questo, è l'SB, il precompresso. Sì, va bene. E anche quando fischi sembra amplificato. E comunque già rende, interessante quello. Quando te ne stufi dall'ame, se vedi il Galaxy non glielo dare quello lì. Oh, ti giuro, non mi stiamo neanche riconoscendomi già. Sogna voce, gente, bella, chiara, bella. Te l'ho detto, è come quando tu uscivi col Turner più 3 e il Galaxy da via Maddalena. Penso un po'. E io, beh, bello, dai. Insomma, che siamo arrivati, io, tu e Bruno. Ma se gli metti uno shooter, come ce l'avevo io, quell'apparecchio lì, una bomba, pure un danno più 3 futti. A chi ha già provato il Turner più 2, il Turner più 3 e l'MB4, questo che ho io, nuda, lo shooter futti a tutti quanti. Ma abbiamo una radio paurosa che su Galaxy va virus a Turnecco. Natalì, io c'ho un Expander 500. Cosa dici? Oh, buca di uno shooter. Mi dice lui. Perché io ho fatto le comparazioni con tutti quei microfoni lì, tutti da tavolo, mi. Nuda, lo shooter era un mio forse. Bisogna cattarlo però, mannaggio. Mi sto usando un SB precompresso, un microfono normale, ma vedo che con questo Galaxy va troppo bene, e mi va bene così. Ehi, lo so, però se buschi lo shooter, è il più forte che esista, è quello che si abbina più bene, è una voce di giara giara. Forse Gianni se lo ricorda, amico, mi uscivo io con Saturnecco, la campagna. E ha voglia che me lo ricordo, mi ricordo anche lo shooter io, mi ricordo anche che in un microfono avevi messo il coso della caffettiera, il filtro della caffettiera per fare, adesso non mi ricordo che microfono era, ma mi ricordo questo particolare. Se vogliamo farlo, lo frega il microfono. Ehi, intanto io mi ricostruivo i microfoni, con un flessibile di lavandino avevo fatto uno. Archimede. Bruno! E Bruno sparito, Bruno è andato a fare la spesa al supermercato. Ma se c'era finito, così impresa ha fatto. Tu gliel'hai ricordato, tu ho visto al supermercato, là, se l'ha ricordato è andato a fare la spesa. Ah, così. Comunque sono andato in quel supermercato vicino a casa tua, già quello che c'è dietro. Perché solo lì le trovo io, quei famosi panini, quelli grandi, rotondi, tipo che le fanno a McDonald's. Ma dove? Supermercato, che c'è vicino a te, quello che è dietro però. No, io le prendo da ditta, quelli che stai dicendo tu, quelli per fare i panini grandi, che li fanno con i viewster eccetera, quelli rotondi morbidi, quelli li trovo. Però devi andare presto, perché c'è uno che fa panini, va e se li prende tutti. E io ne ho trovato 4, ne ho preso 2 soltanto, che oggi faccio un bel paninozzo con il ketchup e poi di qualcosa di buono. Viewster e ketchup, i viewster li fai con le cipolle e poi ci metti il ketchup, lo sai che ti sono buono. Vabbè no, ci metto la carne con il ketchup perché mi piace bene, e poi le patatine fritte, vai via. La carne, se metti cavallo, metti salsa barbecue e poi mi dà la risposta. E adesso il ketchup poi, allora va, mi accontento di bocco. Mi è venuto questa voglia così di mangiare questi panini, dai, già andami. Io ce l'ho sotto quello che fa i panini, me lo faccio fare, me lo porto a caldo. Ah! Caldo con la mortadella è buono. E allora li fa con gli hamburger, patatine, hamburger, oppure cavallo, oppure wurster, insomma, lo fa in tante maniere. Già, io mi devo preparare qualcosa che lo so, ma cosa mormorando. Ok. Dai, ce l'ascoltiamo. Alla prossimina. State bene, ciao abituale che sono in ascolto, me Natalino, tu Gianni, poi Antonio e chi c'è altro non lo so, siete che salutate, ah, Emanuele, che lui è sempre ricco di porco. Anda bene, guarniti da parte mia, ce la sortiamo alle prossime. Ciao ciao! Tu non ti preoccupare, già mi hai invitato, puzzino giù, gamberoni e cane cavallo d'ombro. Poi mi ha parlato di mangiare, di venuta la borra di mangiare. Adesso non guarda glicemia né niente, mi comincia a mangiare e vai, che ce n'è. Me l'hai parato tu? Che senza macchina ci sta più. Me l'hai parato scoppiando da te, Gianni. No, io mangio poco, io a tavola sai cosa mangio? Se lo mangio pure mangio mezzo panino svuotato dalla mollica. E il secondo solo, prima non ne mangio. Solo ieri l'ho mangiato che ho fatto la pasta al forno, Elena. Era fatta un bel grossa, sarà stata da 10 centimetri. Ha fatto un bel distratto, ma buona, ma lo cavagava. Avanti, Natalino. Oia! Oh, devo portare il cane, non la giugana. Oggi c'è un po' il dolore. Non dico che sia fortissimo, però è noioso. E il freddo è magari già. E mi ha bloccato, lo freddo mi ha bloccato l'orologio. Non mi funziona più l'orologio, quello, l'eco drive, quello che ho comprato della CITZ. È troppo bello, mi dispiace, e rimane indietro anche di un'ora, di due ore. Non cammina più bene, dai. Adesso lo smonto e vediamo un pochettino se si può fare qualche cosa. Magari è sporco. No, porta l'orologiaio, no, non è aprire tu che lo rompi. Io ce l'ho, l'eco drive, sempre funziona in diretta. Io da quando sono andato da Usilo a giocare con la neve, non mi ha più funzionato. Adesso che sia un caso. Ma non lo so. Io ce l'ho quello piatto piatto, quello l'eco drive, l'avevo comprato, adesso forse me ne prendo un altro modello. E vabbè, io adesso non è, guarda, ce n'è uno fermo, come si chiama, di marca, lo stesso, ci vuole la batteria, però quello lì ogni volta che tu lo prendi devi fare la prova dell'acqua e sono 80 euro cambiare la batteria e fare la prova dell'acqua. Quello lì è Sector. No, io ho il Tribe della... aspetta, di che marca era, Fanguarda, e ce l'ho fermo lo stesso, ci vuole la batteria. Ma io la batteria non ne voglio più prendere, me ne voglio prendere solare, così non stai sempre ciambare la batteria. Sono un bel di spese, ogni volta cavolo 80 euro per farli, che dopo non lo uso a fare pesca subacquea, perché il mio è sub e poi è anche crono, capito? Sì, ho capito, ho capito. È bello, perché è bello, però ogni volta che si scarica la batteria devi fare la prova dell'acqua, se no ti entra l'acqua dentro, devi cambiare la guarnizione, fare la prova dell'acqua, lo mettono sotto pressione in acqua e poi deve durare alla pressione, capito? Se non dura vuol dire che hanno fatto male il lavoro, li cambiano anche la guarnizione. È così, e anche quell'altro che c'ho io è così. Questo invece è quello elegante, non è né sub né nulla, è di quelli da mettere con l'abito. No? È il mio lo stesso, è uno sportivo classico, dai, metà e metà. Ed è leggero perché non pesa nulla, non ti fa segni, invece quello là ti fa segni anche pesanti. E a me lo stesso, quelli pesanti non mi piacciono molto. No? Cazzo, ne avevo uno piccolino piccolino, l'ho prestato a mia moglie, ce l'hai facciato Ruben, non dirà ginghietta e mi l'ha perso. Può succedere, magari ha scattato, non l'ha messo bene. Può succedere, Natalia, secondo il colpo che le dai. E ce l'avevo già un bel po' di anni, questo qua. L'avevo preso da internet e 180 euro l'avevo pagato. E io quello subacqueo della Citizen lo stesso l'ho pagato più di 200 euro, bello ragazzi. Non so, quelli Citizen sono bel bene, a me piacciono molto. Poi adesso ci sono quelli praticamente che mi fanno, che fanno le cuffie, cazzo, quelli che costano un bel, come si chiama. Poi ce ne sono tanti belli che sono solo delle cuffie, però di Rolex. Sono delle cuffie, però sono fatte perfettamente perché sono molto belli. Sì, lo so, lo so. Vabbè dai, io non è che posso parlare, io sai che venga a Chisso e mi rompia di cazzo. Ma l'antenna non l'ha cambiata? Ancora no. Vabbè dai Natale, ci sentiamo dai. Buona carica se la devi fare, se no buon continuo di serata. Avanti Antonio Bombolo, chi è rimasto? Vabbè, buonasera a tutti. A tutti i fuggiti se ne sono. Ciao, avanti. Sì, ti sento, ti sento. Non ho capito chi sei però, avanti. Ciao Mario, ciao, ben sentito, dai. Un po' bassino sei di radio, però già ti ascolto, va. E adesso come andiamo? Adesso sei tu. Chi scappa? Bene, ok, dai, l'importante che arrivo bene, che mi ascolti bene. Ti ringrazio Gianni, buona serata. Ciao Mario, stai chiudendo? Buona serata anche a te, dai, ci sentiamo. Io adesso mi scendo giù a portare il cane e poi mi rientro in casa. Bene, scappa, buona passeggiata allora, vai. A te e anche al cane. Buona serata, ciao Gianni. Ciao, ciao, ci sentiamo.